Radio 24 Reportage. Africa, una vita altrove, di Francesca Del Rosso. Il Togo è difficile questo, il Togo avrebbe bisogno di essere autogestito secondo me, cioè meno influenze da parte nostra, meno influenze da parte del multinazionali soprattutto, però non credo sinceramente che sia ancora pronto una democrazia. Infrastrutture, il Togo è messo malino, sembra che adesso con gli aiuti delle comunità europee, dei vari aiuti mondiali, si pensa che possa riprendere un pochettino. Chi parla è un imprenditore trentino, Walter Osler. Vive in Togo da 16 anni, da quando, cioè, un amico gli aveva promesso grandi business in Africa. I primi progetti sono andati presto in fumo, ma Walter non ha desistito e si è creato una piccola ditta. Oggi gestisce una fornace e produce migliaia di mattonelle artigianali da esportare. Trasforma l'argilla in manufatti per l'Italia e l'Europa. Quando Walter mi accoglie nella sua bella casa fornita di tutti i comfort, di fronte a una bottiglia di vino rigorosamente italiana, si sfoga e mi fa capire sin da subito che vivere a Lomé gli costa molta fatica, anche se il suo settore ha risentito poco della crisi economica. Ma il mercato, come tutti i mercati ora in Italia e in Europa, sono un po' in crisi, però nel mio settore non mi posso lamentare perché essendo manufatti, quindi del materiale fatto a mano, fatto artigianalmente, ha un mercato abbastanza grosso in tutta Europa. Cosa le piace di questo paese? Qui è un po' difficile. Dunque, niente, nulla. No, nulla perché ovviamente essendo italiano le mie abitudini e qui mi vengono a mancare alcune cose che sono fondamentali per la nostra cultura. Beh, per esempio, appunto, la cultura stessa, quindi non ci sono teatri, non ci sono cinematografi, manca di struttura. Tutta un'altra storia è quella di Oscar, un piemontese che ha cambiato radicalmente la sua vita e che qui a Lomé ci vive da qualche anno e ci vive bene. Ho 70 anni e da 7 anni che sono in Togo. Prima facevo l'idraulico in Piemonte, sono di Pinerolo. Con la pensione che danno agli artigiani non si può vivere. Ho avuto l'occasione di venire in Togo per fare un lavoro e poi quel lavoro è andato a male perché mio amico ha avuto dei problemi. Mi sono girato un po' attorno, ho visto il porto come cominciava un po' gli affari, ho detto cosa faccio qua? Sono ritornato in Italia e ho cominciato a comprare camion a un certo prezzo, camion di occasione, macchine, un po' di roba. E ho cominciato così, piano piano, e poi ho trovato casa qua a Lomé, ho trovato una compagna e così ho continuato la mia vita qua. Vi dico subito che non è facile, perché bisogna cambiare mentalità completamente. Ho divorziato da mia moglie in Italia perché lei non voleva sapere dell'Africa. I miei figli collaborano con me, mi danno una mano lassù, mi cercano i mezzi. Più o meno può funzionare, però è dura, vi dico subito che è dura. Però questa vita, nonostante le grandi differenze con l'Italia, le piace. Mi piace perché è l'Africa. Quando cominci a stare un paio di anni in Africa, dopo veramente... Io già mio fratello ha vissuto tanti anni in Africa e mi diceva il mal d'Africa, non ci credevo, però adesso che sei qua veramente è il mal d'Africa. Gli italiani presenti in Togo sono circa 130, una trentina nella sola capitale, gli altri sono sparsi lungo questa striscia di terra confinante con Ghana, Benin e Burkina Faso. Molti sono imprenditori, ma la maggioranza sono missionari o volontari laici. Ma esiste la solidarietà tra gli italiani che vivono a Lomé? Oscar si infiamma. No, assolutamente no. Prima di tutto perché abbiamo un console che per noi fa proprio zero. Mi dispiace dirlo, non lo vediamo mai. Non gli interessa di fraternizzare con noi. Voilà. Ogni tanto ci troviamo quei due o tre amici italiani, però sono pochi. quei pochi, ognuno cerca di fare la sua vita. Poi adesso con il periodo è un periodo un po' nero perché non c'è molto commercio. Cosa le piace di questo paese? Mi piace la semplicità della gente. La gente qua è povera. C'è gente ricca, straricca e gente molto povera. Se uno abita fuori della grande città, vede la povertà, vede le cose che fa pena. Noi abbiamo un'infermiera qua, un'infermiera italiana che conosciamo da anni, si sacrifica molto per noi altri, cerchiamo di darle una mano portando un po' di materiale quando riusciamo, perché molte volte ci rubano la roba sui camion. Spesso infatti i ladri entrano nei container e nei camion che importa Oscar e gli rubano di tutto. Anche le medicine e i vestitini che i suoi figli raccolgono in Piemonte per regalarli a quell'infermiera di cui ci ha appena parlato, Maria. Due occhi dolcissimi, un grande sorriso e un camice bianco. È quello che vedono tutte le mattine le persone che si recano al dispensario costruito 10 anni fa nel cuore di Nomé. Maria offre tutti i giorni assistenza e medicine a circa 100 di persone, soprattutto donne e bambini. Malnutriti, gli orfani aumentano sempre di più e i problemi sono veramente... Facciamo i casi più gravi e poi piano piano gli altri. Solo 10 che c'è il dispensario, dopo la pensione abbiamo aperto. E da quel giorno Maria non si è più fermata. Con l'aiuto di 2 infermiere locali gestisce una piccola infermeria di 2 stanze nel cuore della città. Molti medicinali arrivano da associazioni italiane e missioni religiose, ma la povertà non accenna a diminuire, le condizioni igienico-sanitarie sono disastrose. A qualche decina di chilometri dalla capitale c'è Tablibou. In questa cittadina da anni esiste la sede di una missione comboniana. Sono un missionario comboniano, padre Gaetano Montresor, sono veronese di nascita e sono arrivato in Togo nell'84 la prima volta e adesso sono qui a Tablibou da 3 anni. Allora, cosa fa un missionario? Beh, sacerdote missionario si occupa sostanzialmente di 2 cose, un'assistenza diciamo pastorale, nella preghiera, con i sacramenti, la catechesi, e un'attenzione sociale alla gente, per cui gestiamo un dispensario, stiamo attenti a certi casi di malattie un po' particolari. Ultimamente dobbiamo dire che, aiutati anche da medici di Nomé, abbiamo potuto fare quasi dei miracoli. Cioè, quindi c'è questa presenza doppia, spirituale e sociale, che ci fa lavorare, ci affatica un po', ma ci dà tantissime soddisfazioni. Il Togo, insieme al Benin, è considerato la culla del voodoo. E qui nel Togo sud-occidentale sono molti villaggi dove la religione animista dà un senso e un significato a tutte le cose. Il voodoo accompagna le persone dalla nascita alla morte e all'aldilà e coinvolge tutti gli aspetti della vita terrena. Qui il cristianesimo necessariamente convive con il voodoo. Io credo che, essendo nei primi 110-120 anni di evangelizzazione, credo che dobbiamo considerare la posizione dove siamo. Cioè, qui nella nostra parrocchia, 70.000 abitanti, i cristiani siamo il 10% forse. Evidentemente l'animismo porta con sé una paura. C'è una religione che ti tiene legato dalla paura. Essere liberati dalla paura, non è così evidente. Cioè, tu non sei libero di praticare questa religione, sei obbligato a praticarla. Ora, la libertà in Gesù Cristo, che è la fede, si accoglie un po' alla volta, cresce pian pianino, e anche avere un appoggio sociale serve, cosa che qui non c'è. Quindi che una persona a un certo momento sia obbligato dalla famiglia a fare delle cerimonie voodoo, se è un ragazzino come fai a dire non devi farlo? Per esempio, si deve scoprire chi ha rubato qualche cosa. Tu non partecipi, sei colpevole. Si può chiedere a un ragazzino questo? Si può chiedere a un papà che ha il figlio ammalato e non sa più come fare, perché con le medicine non si riesce a fare niente, di andare a tentare anche dalla medicina tradizionale, perché il voodoo alla fine è tutto un affare di medicina anche, Si può impedirglielo? Se ci si ammala ci si reca dal cerimoniere che con riti e rimedi naturali cerca di guarire l'ammalato. Non sempre ci riesce. L'assistenza medica e sanitaria in Togo è quasi assente, lo fa capire anche lo stesso Walter, che assiste i suoi 40 operai della fornace ogni volta che hanno un grave problema. Senza il suo intervento diretto i dipendenti rischiano di morire, come è accaduto anche pochi giorni fa. Questo parere, a dirle il vero, è la seconda volta che rischia di morire. La prima volta per un ictus che è stato portato dai parenti dal medico tradizionale, dallo stregone. E ovviamente per un ictus non poteva fare niente. Adesso è un'aria strozzata e anche in questo caso è intervenuto lo stregone locale, quindi vuol dire morte certa. Niente, l'ho portato all'ospedale, l'ho portato in una clinica privata, perché gli ospedali sono quelli che sono. E ovviamente la clinica era pronta, non avevano 100.000 franchi per operarlo. Se io non portavo questi 100.000 franchi non l'avrebbero operato. E lui moriva.